frequenze Sui Generis. Innamorati del femminismo. Ed ecco che dopo la lunga pausa estiva siamo ritornate negli studi di Radio Città Fujiko per iniziare una nuova stagione di Frequenze Sui Generis, la trasmissione che parla di questioni di genere, che vi fa vedere il mondo attraverso le lenti del genere e vi racconta come in realtà la prospettiva di genere è una prospettiva che può abbracciare veramente a 360 gradi tutta quanta la nostra vita. La pausa è stata lunga, ma adesso siamo tornate. Oggi in studio ci sono io, che sono Mari, e insieme a me c'è Anna, che finalmente è ritornata con noi. Sì, io sono proprio ritornata dalla Svezia, di nuovo in questa bellissima e calda Italia. E allora Mari, iniziamo un po' con un riassunto di come è andata quest'estate. Tra l'altro a Bologna si sono mosse un sacco di cose in queste settimane, ci siamo mangiate le mani per il fatto di non aver ancora iniziato la trasmissione, ma recupereremo in fretta. Sì, diciamo è stata un'estate sicuramente molto interessante, sia per quanto riguarda il panorama culturale e diciamo di attivismo bolognese, ma io devo dirti, Anna, che ho visto anche con piacere come le questioni di genere hanno veramente invaso anche delle manifestazioni culturali molto molto amate, come possono essere ad esempio dei festival di fotografia a cui ho partecipato quest'estate, che mi hanno lasciata veramente contenta, devo dire. Questo anche perché, faccio una piccola anticipazione, oggi parleremo insieme dell'assemblea che ci sarà questo weekend, l'Assemblea Nazionale, lo ricordiamo, di Non Una di Meno. Ma prima di andare appunto a parlare più nello specifico insieme a Paola Rudan di come insomma si svolgerà questa assemblea, siccome molti dei temi di cui lei poi vi parlerà sono anche i temi che abbiamo un po' toccato quest'estate in alcuni momenti culturali, quindi Anna, non so se vuoi prima parlare tu delle questioni bolognesi, anche quelle più recenti a cui abbiamo partecipato. Beh sì, intanto c'è stato sempre Fair Cake di recente, in cui hanno proiettato moltissimi film, ma ci sono state anche discussioni di libri, insomma ne abbiamo già parlato in questa radio, però è stata veramente un'occasione bella di incontro. Sempre Fair Cake è appunto il festival di indipendente di cinema lesbico che si tiene a Bologna, quest'anno era la 10ª edizione e insomma è stato molto bello partecipare. E tra l'altro, se non siete riusciti a partecipare, sappiate che sul sito di Radio Città Fujiko ci sono moltissimi articoli in proposito, quindi sentitevi liberi di visitare il sito e di spulciare un po'. Ma sempre nella stessa settimana c'è stata anche la presentazione di Crazy, che è un progetto diciamo lanciato dall'ex laboratorio Smascheramenti di Atlantide, ed è un progetto veramente interessante perché, partendo dal lavoro che si era già fatto all'interno di Atlantide, loro cercano di costruire, adesso sto riassumendo molto ed è un discorso anche complesso, quindi non sono sicura di riuscire a farlo nel modo corretto e con i termini giusti, però fondamentalmente parte da una critica all'accademia e al tipo di costruzione dei saperi e talvolta di riappropriazione e diciamo istituzionalizzazione dell'esperienza dei gruppi LGBTQ+. E quindi sì, insomma, Bologna è stato un mese ricchissimo di iniziative. Non so se fosse così anche l'anno scorso e sono io che mi sono stupita dopo qualche mese passato all'estero. E questo può essere, che dopo qualche mese diciamo nelle lande desolate, con tutto il rispetto per le politiche, insomma, diverse politiche adottate in Svezia di cui magari avrei potuto usufruire, ma sicuramente dal punto di vista culturale, insomma, il paesino in cui eri non può essere paragonato a Bologna. Sì, no, certo. Poi Bologna ha altri difetti, diciamo sul piano burocratico, per esempio, ma mi sembra di andare a dire delle ovvietà. Quindi facciamo semplicemente che comunque è stato bello ritornare nella città di Bologna e trovare tutte queste attività. Ma allora, prima di entrare appunto nel vivo dell'Assemblea Nazionale di Non Una di Meno, che si terrà, come dicevamo, questo weekend, per quanto possa sembrare un po' singolare raccontare appunto, continuare questa carrellata di eventi che non possiamo pubblicizzare perché ci sono già stati, quindi non vi stiamo dicendo andateli a vedere. Però diciamo che anche gli spazi virtuali e la rete può permettere comunque di farsi un'idea di ciò che è stato senza esserci stati nel momento preciso. Mi ha colpito moltissimo questo festival internazionale di fotografia che si svolge a Cortona, che si chiama Cortona on the Move. Devo dire che mi ha colpito moltissimo la scelta della direttrice artistica di selezionare la maggior parte appunto delle fotografe selezionate sono donne, e sono donne che toccano dei temi che vedrete poi tornano anche molto con quelli di cui parleremo quando parleremo dell'Assemblea di Non Una di Meno. E quindi vi voglio giusto dare qualche nome da poter andare a cercare, come sicuramente il nome di Elinor Carucci, non so se si pronuncia così, però è così che si scrive, che ha fatto un lavoro bellissimo sulla maternità. Dopo che è diventata madre, ha fotografato se stessa e i propri gemelli praticamente durante tutto il loro percorso di crescita, con l'intento di narrare una maternità fuori dai temi edulcorati. Sono delle foto molto belle, molto di impatto, che riescono veramente, secondo me, a raccontare la maternità a 360 gradi, e che amiche, donne, insomma, sono state molto colpite, magari amiche che erano diventate madri da poco, da questa sincerità della narrazione della maternità, che è qualcosa di cui c'è veramente molto bisogno. Un'altra fotografa i cui lavori vi consiglio di cercare è questa Tania Abjouka, insomma scritto Habjouka, mi perdoneranno le amiche e gli amici che parlano arabo per la mia incapacità di lettura corretta, che ha fatto un lavoro meraviglioso sulle donne sopravvissute alla guerra in Siria e di cosa i loro corpi raccontano, di che cosa i loro corpi in quanto corpi di donna hanno vissuto nell'orrore che è la guerra. Ma poi andiamo proprio una veloce carrellata, un'altra fotografa con delle foto veramente molto belle, una fotografa che si chiama Pulomi Basu, ritrae le donne nepalesi che devono allontanarsi dalle loro abitazioni nel periodo mestruale, quindi porta in luce veramente questo stereotipo e questo vedere un momento naturale come quello del ciclo mestruale come un qualcosa di cui vergognarsi, e per cui addirittura queste donne vengono allontanate dalle proprie case, devono andare a dormire in rifugi di fortuna, a volte portandosi dietro i figli ed essendo sempre, diciamo, sottoposte anche alla possibilità di subire violenza dagli stessi uomini. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti, quindi se avete voglia di andare a cercare queste fotografe veramente fantastiche, andate a cercare Cortona On The Move, ed è assolutamente un festival di fotografia che vi consigliamo di tenere d'occhio. E allora io direi, Mari, prima di andare ad ascoltare la prima canzone che ci accompagnerà in questa puntata, di parlare anche un pochino di noi, nel senso che è molto bello che raccontiamo gli eventi a cui abbiamo partecipato, e tra l'altro anch'io mi andrò a cercare queste fotografe a questo punto, però insomma parliamo un po' di noi. Intanto avrete notato che è cambiato l'orario in cui siamo in onda, quindi questo è il nuovo orario in cui venirci ad ascoltare ogni settimana. Invece la pagina Facebook rimane sempre quella, Frequenze Sui Generis, seguiteci, e vogliamo diventare più famose di Chiara Ferragni. Sì, sappiamo di poterci riuscire, d'altra parte insomma, perché no? Sì, esatto, è esattamente la domanda che ci stiamo facendo tutte, credo. E invece la prossima settimana, quindi per la prima volta vi presentiamo un evento a cui potete effettivamente partecipare, si terrà l'ETC, ovvero l'Athletic Tech Carnival, a XM24, durerà una settimana e noi speriamo di riuscire a partecipare. Sarà da lunedì a domenica, dobbiamo ancora organizzarci un po' e riuscire a sincronizzare le nostre vite da precarie, però state sintonizzati, perché tra pagina Facebook oppure direttamente nella prossima puntata di martedì prossimo, che sarà il 9 se non mi sbaglio, vi daremo informazioni così potrete ritrovarci. Intanto a questo punto io direi di andare ad ascoltare la prima canzone di oggi, che è una canzone adatta secondo me ad un nuovo inizio. Sì sì, è una canzone decisamente adatta, e quindi mentre tu la fai partire vi diciamo l'altro cambiamento che c'è stato appunto per questa stagione, ovvero che non abbiamo più deciso di scegliere un'artista tematica, perché d'altra parte siamo ospitate da una radio che parla bene benissimo di musica, insomma molto meglio di noi, ma semplicemente canzoni che ci accompagneranno per lasciare più spazio alla parte culturale e di narrazione delle notizie all'interno di questa mezz'ora. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleeping

comunque movimento soggettivo che rifiuti i ruoli e le posizioni che sono imposti dalla società patriarcale. Il nostro intento è esattamente di affrontare questa cosa a 360 gradi, quindi nelle sue manifestazioni sociali più complessive. Ci sarà un tavolo sul razzismo, perché quello che sta succedendo a partire dall'abrogazione del permesso umanitario con il decreto Salvini, ma anche tutto quello che abbiamo visto nel corso di quest'estate, è qualcosa che di fatto sancisce che la violenza sessuale che le donne migranti subiscono per tutto il loro percorso non è più una ragione legittima per pensare che loro abbiano diritto alla protezione in questo paese, per fare soltanto un esempio a riguardo. Il tavolo lavoro e welfare, perché è chiaro che dietro alla maschera di innovazione del decreto dignità c'è una precarizzazione che continua a riguardare in modo molto specifico le donne, e perché la proposta di governo del reddito è qualcosa che va completamente nella direzione opposta rispetto al reddito di autodeterminazione che Non Una di Meno ha proposto nel suo piano femminista, un gruppo tematico relativo a salute e aborto, libertà di abortire, perché sappiamo molto bene che su quel terreno la campagna e la lotta non sono finite. Infine ci sarà la presentazione di un progetto chiamato Rigeneriamoci liberamente, su ambientalismo e lotte femministe, e l'assemblea plenaria invece si terrà sabato mattina e sarà il momento di fare una sintesi a partire da tutta questa discussione nella direzione sia delle grandi scadenze e sfide che abbiamo di fronte e di mobilitazione, che sono il 25 novembre e l'8 marzo è l'appuntamento dello sciopero. La sfida è quella di non farne dei riti, ma avere la capacità di fargli avere una presa potente sul presente, e tutto quello che ci aspetta nel frattempo. Queste due scadenze sono parte di un processo che deve rimanere attivo tutti i giorni e che ci richiede di pensare appunto un'iniziativa politica efficace, perché l'attenzione non cali mai sulle nostre rivendicazioni. Grazie Paola, ti faccio una domanda per chi appunto non ha mai partecipato a questi tavoli tematici. Se vuoi un po' spiegare come funzionano, nel senso, le persone arriveranno da voi, si iscriveranno e poi potranno dividersi in questi tavoli. Ti volevo chiedere appunto come avverrà il lavoro di questi tavoli e soprattutto al termine di queste giornate con che cosa si andrà a casa. Allora, intanto c'è un form, questo lo dico perché è un'altra informazione tecnica importante, lo trovate anche ancora, ripeto, sulle pagine Facebook, un forum di iscrizione che è utile ovviamente per organizzare anche dal punto di vista logistico l'accoglienza e l'assemblea. I tavoli, ripeto, i gruppi di lavoro, ecco, forse è più opportuno chiamarli, sono organizzati con delle semplici introduzioni problematiche, diciamo così. Il problema è quello di ragionare insieme su quali sono le questioni che abbiamo davanti, ma appunto il problema è ragionare insieme. Tutte quelle che hanno delle iniziative specifiche in atto, in corso, sulle questioni che ho nominato, hanno la possibilità di prendere parola, di condividere l'esperienza, di condividere i problemi e i limiti di quell'esperienza e di ragionare insieme su come è possibile sviluppare organizzazione e iniziativa su questo terreno. È importante per noi, nelle riflessioni che abbiamo condiviso a Bologna, non soltanto a Bologna, ricordare sempre che, per quanto sia chiaro che esiste un ambito, diciamo, di attivismo che ha fatto sì che Non Una di Meno andasse avanti ormai per 2 anni, però la cosa che per noi è importante è parlare al di fuori dei confini dell'attivismo, e i tavoli sono comunque qualcosa che, sia rispetto a quello che speriamo sia la partecipazione, sia rispetto ai discorsi che facciamo, deve essere puntato esattamente sulle questioni che stanno urgentemente premendo sulla vita di tutte le donne. Quindi questo è ciò di cui si discuterà. Quello che vogliamo tirare fuori sono delle iniziative coordinate, campagne condivise, parole d'ordine condivise, perché è anche chiaro che c'è un'assoluta eterogeneità dentro Non Una di Meno, e questa è la sua forza, perché ha avuto la capacità di combinare l'esperienza, per esempio, dei centri antiviolenza, la loro storia femminista, con ambiti di movimento o di organizzazione molto diversi, ma proprio questa combinazione, questa sinergia che non è stata mai omogeneizzazione quello che ha reso possibile momenti importanti come i due scioperi dell'8 marzo 2017-2018. Io ti volevo chiedere, spostandoci un pochino su Bologna, diciamo, voi come non una di meno nell'ultimo periodo siete state molto molto attive sul fronte delle migrazioni, nel senso è stata non una di meno Bologna a organizzare i pullman per andare a Ventimiglia in manifestazione, siete state a Modena, e quindi ti volevo chiedere se intanto se avete in programma qualche altra iniziativa nei prossimi mesi che poi discuterete in assemblea, e poi siccome una delle aree tematiche è appunto proprio quella delle migrazioni, a che punto siete arrivate in quest'area tematica? Allora, ti posso riportare ovviamente delle riflessioni parziali nel senso che il gruppo di lavoro che ci sarà il prossimo weekend dovrà condividere, allargare e specificare alla luce dei fatti presenti questo discorso, però c'è un motivo per cui ci siamo impegnate così tanto qui a Bologna per la manifestazione antirazzista di Ventimiglia e per la manifestazione dei migranti di Modena. Lo abbiamo detto con uno striscione che abbiamo portato in queste due circostanze, femminismo e antirazzismo. Le due cose non possono essere in nessun modo separate. Non possono essere separate per vari motivi, alcuni che sono ormai noti e trovano conferma nel decreto Salvini, cioè il fatto che la violenza contro le donne sia assolutamente strumentalizzata ideologicamente per costruire un'immagine dei migranti come minaccia alle donne nostrane e quindi giustificare politiche razziste, espulsioni, ritiri dei documenti e così via. Ma c'è un motivo ulteriore. È evidente che in questo momento gli attacchi di questo governo, ed è qualcosa che sta avvenendo in verità in tutto il mondo, gli attacchi sono diretti specificamente contro le donne, contro chi non accetta ruoli sessuali di genere, una disciplina della sessualità come quella imposta dal patriarcato, e i migranti. Questi sono i due bersagli delle politiche razziste, reazionarie, che stanno avendo luogo ovunque nel mondo. Questo succede perché questa pratica di violenza, come non una di meno ha sempre detto, è una pratica sociale. E una pratica sociale significa che serve a comunicare a tutti che le gerarchie, la subordinazione sono necessarie a questa società, che quest'ordine funziona così. Oppure che siamo completamente disponibili, come una donna stuprata è l'oggetto pienamente disponibile per eccellenza, è così che lo stupro la rende, la vede, e questa piena disponibilità è un'idea che transita per esempio nel mercato del lavoro, dove le violenze sui posti di lavoro, le molestie sui posti di lavoro sono pratiche ordinarie per mantenere le lavoratrici in subordinazione. Se pensiamo allo sciopero di McDonald's di meno di 10 giorni fa negli Stati Uniti, è un esempio lampante, è uno sciopero femminista che rivendica contemporaneamente maggiore salario e quindi si oppone allo sfruttamento e riconosce che le molestie sul lavoro sono parte integrante di quello sfruttamento. E lo stesso avviene con i migranti, questo razzismo è un modo per renderli disponibili alle pratiche di lavoro volontario, che sono nient'altro che modalità di sfruttamento che si servono del razzismo tutti i giorni. Nel dire femminismo e antirazzismo c'è dire noi rifiutiamo questa gerarchizzazione, rifiutiamo questa violenza, e soprattutto questo è il presupposto per essere dalla parte delle donne e degli uomini migranti che lottano, così come non una di meno è stata segnata in tutto il mondo dal protagonismo di tutte quelle donne che dicono basta, non vogliamo più essere vittime, non accettiamo più la violenza, così crediamo che questo femminismo non possa che essere antirazzista, sostenere le lotte dei migranti e creare le condizioni perché si moltiplichino tanto quanto quelle contro la violenza patriarcale di genere. Paola, ti faccio un'ultima domanda. Questo incontro è aperto a tutte e tutti? Assolutamente sì. Sì, te la facevo perché sì. A volte ce lo si chiede, no? Nel senso che non è sempre scontato, mentre invece appunto anche la forza di non una di meno è quella di essere inclusive nel vero senso della parola. Quindi noi ti ringraziamo per quanto ci hai detto e invitiamo appunto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a visitare le vostre pagine Facebook Non una di meno Bologna e cercare questo form con cui potersi iscrivere appunto all'assemblea. Insomma, ci vediamo tutte quante e tutti quanti all'assemblea. all'assemblea del prossimo weekend. Perfetto, ci vediamo lì, grazie veramente. E stiamo per salutarci anche noi, direi, Mari, perché siamo arrivati quasi al termine di questa puntata, non ci resta che ricordarvi alcune cose. Allora, la prima è anche la nostra pagina Facebook, che è Frequenze Sui Generis, su cui ritroverete il podcast anche di questa puntata. Io sarò all'Assemblea Nazionale di Non Una di Meno, quindi se riesco a organizzarmi tecnicamente magari condividerò anche alcune dirette, qualche informazione live dall'assemblea. Tra l'altro vi ricordiamo che se volete scriverci sulla pagina Facebook o all'indirizzo mail frequenzesuigeneris@gmail.com per suggerirci qualche tema di cui pensate che sia importante parlare, o anche solo per dirci che cosa pensate del nostro programma, che cosa pensate anche delle scelte musicali, visto che non abbiamo più un artista del giorno, direi che potete mandare tutte le canzoni che volete e comporre voi la nostra playlist, se vi va. Esatto, perché come dicevamo, insomma, i temi di cui parlare assolutamente non mancano, perché con un'ottica di genere i temi sono tanti quanti sono tutti i temi della vita. Però se avete qualcosa in particolare che vorreste che noi approfondissimo, assolutamente scriveteci, contattateci su Facebook o sulla mail, e insomma cercheremo e faremo in modo di dare risposta ai vostri interessi. E quindi non ci resta, appunto, Anna, che salutarci. È la fine di questa prima puntata di una grande, grandissima stagione. Non ci resta che lasciarvi con un brano che ci piace moltissimo, con Le Four Non Blondes, WhatsApp, e noi ci vediamo martedì prossimo, sempre alla stessa ora, sempre su Radio Città Fujiko. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis. Take a deep breath and I get real high, and I scream from the top of my lungs, what's going on in our damn yeah. I said, hey, what's going on in our yeah. is still trying to get up that creepy hill of hope for a destination.